Buongiorno, buongiorno anche da parte mia. Oggi abbiamo un incontro bellissimo, no? I battesimi, e quindi cercherò anche di essere conciso, breve, so che non vedete l'ora di vedere quello che sta per succedere, loro sono pure sulle spine, no? Marco, Vincenzo, Antonio, che detti un po' così, messi in un ordine diverso, Vincenzo, Marco, Antonio, sembra un nome unico, sembra un nome di un imperatore romano. Ok, che bello avervi. Mi sono preoccupato, Vincenzo, che ti tengano un po' di più sotto quando ti battezzi, così. No, ti voglio bene, ti voglio bene. Oggi volevo condividere con voi una storia che è una delle storie più conosciute della Bibbia, che Gesù ha raccontato quando lui è venuto qui e ha condiviso il suo tempo sulla terra. E questa storia si chiama Il figliuol prodigo. Quanti di voi la conoscono? Ok, allora, quelli che non la conoscono possono restare, gli altri potete andare via. No, penso sia bello poterla condividere e ascoltarla insieme perché è sempre molto piacevole, bello. Ogni volta la parola di Gesù parla in modo diverso alla nostra vita. Quindi vogliamo porre attenzione a ascoltare questo passaggio della Bibbia che è scritto in Luca capitolo 15. Leggiamo dal verso 11. A proposito, figlio prodigo, che cosa vuol dire figlio prodigo? Spendaccione, ok? Così è più facile, lo capiamo meglio. Il racconto del figlio spendaccione. Allora, Gesù disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. E dopo non molti giorni, il figlio, questo qui che aveva chiesto i soldi, figlio più giovane, messe insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. E allora, rientrato in sé, forse siamo finiti qua. No, allora, rientrato in sé, disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza? Io qui muoio di fame, io mi alzerò. Andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami pure come uno dei tuoi servi. Questa storia è una delle storie, come dicevo prima, più conosciute, più belle, fa parte di un racconto più ampio, una trilogia, no? Altro che il Signore degli Anelli, è una cosa un po' più ampia. C'era la moneta persa, c'è la pecora smarrita e poi c'è quest'ultimo episodio che è il gran finale, bellissimo. Luca, che è lo scrittore del Vangelo, non dedica molto tempo agli altri due racconti, li racconta molto brevemente la pecora smarrita e la moneta persa, e poi parla di questa storia dove qui ci sono tanti dettagli, una bella storia, una bella sceneggiatura, bellissima. E io credo che forse anche per un po' immedesimarci nel racconto di questa storia, sarebbe bello pensarla un po' adattata ai nostri giorni, ok? Quindi fate uno sforzo con me di immaginazione e proviamo un po' a ricordarci questa storia in una maniera diversa. Per esempio, prendiamo il padre. Il padre è un uomo ricchissimo, un uomo che ha una casa bellissima, che è per voi l'uomo più ricco d'Italia, più o meno? Berlusconi, benissimo. Silvio, lo sapevo. Allora, Silvio ha dei figli e poi c'è il suo figlio, quello più famoso. Come si chiama il figlio più famoso? Pier Silvio. Allora, Pier Silvio va un giorno da suo padre e gli dice, papà, sai che lui è un po' milanese, papà, dammi la parte dei beni che mi spetta. Allora, voglio essere chiaro, il patrimonio della famiglia Berlusconi è di 8 miliardi di dollari. È diviso, quanti sono? Cinque figli, ok? a Pier Silvio spetta circa $1.5 miliardi. E Silvio dice, Pier Silvio, mi consenta, che lui dice un po' così, mi consenta, ma io non sono ancora morto e vuoi la mia eredità, come ti viene? Cioè, aspetta che io muoia e poi ti prendi i soldi che ti spettano. E Pier Silvio dice, sì, vabbè, ma tu c'hai 80 anni, sei vecchio, dovessi morire da un sacco di tempo, non muori mai, dammi i soldi che mi spettano. Allora Silvio fa uno sforzo, va alle Cayman, sblocca tutti i soldi e dà il suo $1.5 miliardi a Pier Silvio, che, come leggiamo nella storia, dopo qualche giorno prende un aereo e vola via. Va via con tutti i suoi soldi e, non so, in un posto lontano, Shanghai. Vi piace Shanghai? A me sì. Shanghai, in Cina, che poi non so che vi confondete, che ho delle persone in famiglia che non sanno dov'è Shanghai. Shanghai è la città un po' la New York, la nuova New York dei tempi moderni, quindi ci sono un sacco di affari lì e Pier Silvio inizia a comprare un grattacielo dove va ad abitare nel suo attico. Ovviamente nel grattacielo non abita nessuno, solo lui, perché insomma, voglio dire, con tutti i soldi che ha se lo può comprare, quindi va ad abitare nel suo grattacielo a Shanghai e inizia a sperperare i suoi soldi, inizia a conoscere gente e fa la bella vita, non sa quale colore di Ferrari scegliere la mattina perché è imbarazzato, dice prendo la rossa, prendo la gialla, prendo la bianca, insomma, di fatti. È un uomo che sta bene, sta a Shanghai, poi arrivano i signori di una compagnia di produzione di telefoni di cui non farò il nome, che inizia con l'H o con la S, fate voi, e gli dice Pier Silvio, ciao, piacere, noi siamo della società quella lì, e dice vuoi fare affari con noi? Noi abbiamo un sacco di piani industriali per il nostro paese, vuoi investire con i tuoi soldi per fare un piano magnifico di telefonia mobile mondiale, globale. Noi abbiamo la tecnologia più avanzata, più bella dell'iPhone. E quindi vuoi spendere i tuoi soldi per investire in questo? E lui dice, Pier Silvio, quanto mi costa? È poco, poco, $1.5 miliardi. E quindi Pier Silvio dice, ma sì, proviamo. Può essere che vendendo, non so quanti saranno i pezzi che aveva in mente questa società, guadagnerò un sacco di soldi, altro che mio padre, diventerò ricchissimo, sarò un uomo più in vista del pianeta. E quindi pensa di investire questi soldi e li investe. Dopo un po' inizia una crisi finanziaria mondiale. E Pier Silvio perde tutti i soldi, ok? Perde tutto, perché lui aveva investito in questa società che è fallita. Se volete investire in qualcosa, investite in Apple, non in Samsung. Stupido. Quindi niente, perde tutti i soldi e lui si trova vagando senza meta, perché ha dovuto vendere le sue Ferrari, ma non gli bastava più, il grattacielo ormai è stato pignorato dal governo cinese e quindi non ha più niente. Non ha più niente. E inizia a vagare per le campagne della Cina e cerca dei posti dove può andare a lavorare per vivere, per sopravvivere in realtà, perché non ha più niente. In realtà la cosa più brutta è che non ha perso la dignità, non ha più neanche un nome e si vergogna anche a dirlo. E quando va, non so, nelle campagne trova, non so, una fattoria, immaginiamoci un po' questa fattoria, la cui padrona assomiglia molto alla signora che ha il ristorante cinese qui a Modugno, che è sempre un po' così arrabbiata, e dice, io ho bisogno di lavorare, cosa posso fare? E dice, sì, se vuoi puoi stare qui, puoi dare da mangiare ai maiali, mi raccomando, perché i maiali sono importanti per la nostra cucina, se non dai da mangiare i maiali, potremmo fare a te maiale in aglio dolce, va bene? E quindi Pier Silvio dice, l'unica cosa che posso fare è rimanere qua, cosa devo fare? Do da mangiare le ghiande, cosa mangiano i maiali? Le ghiande, carrube, queste cose qua. E a un certo punto Pier Silvio, il nostro figlio spendaccione, ritorna in sé e dice, diamine, ma possibile che io non abbia pensato minimamente a fare un passo di umiltà e dire magari posso tornare a casa di mio padre ad Arcore, no? Torno in Italia e può essere che, non lo so, può essere che mi metta a lavorare con lo stagliere o con un cameriere, non so, però ho bisogno di cambiare la mia vita, non posso restare qui. C'è la signora cinese anche che è molto arrabbiata con me. E dice, fa questa cosa qua, si scrive un bel discorso, non so se l'avete letto, ma è proprio bello perché dice, padre, lui non può neanche chiamare il padre perché gli sono finiti i minuti sul cellulare, non ha più niente, non può neanche mandare un'email. Dice, scriverò questo discorso, andrò lì in Italia, non so quanto tempo ci impiegherò per tornare in Italia, ma andrò da lui, gli farò questo discorso e gli dirò, padre, papà, io ho peccato contro il cielo e contro di te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Che bel discorso. Trattami pure come uno dei tuoi servi. Bellissimo. E mi piace che lui abbia questa condizione, no? Inizia questo discorso e dice, padre, io ho peccato. Cioè, io ho sbagliato, no? Ho fatto qualcosa di male con te. Questo concetto è chiave in questo discorso, perché quando noi parliamo di peccato sembra una cosa che non ci interessa, no? Che riguarda un'idea religiosa, riguarda qualcun altro, perché gli altri sbagliano, ovviamente, mica noi. E quando invece in realtà il peccato è molto più vicino alla nostra realtà di ogni giorno, più di quanto noi possiamo immaginare. Non stiamo parlando solo di errori come quello di Pier Silvio nel nostro caso, ma errori che possiamo fare quotidianamente. E se vogliamo capire meglio questo concetto, possiamo sostituire questa espressione peccato con mancare di fare qualcosa. Mancare, ok? Mancare tipo quando devi fare un rigore in una finale, lo sbagli, ok? Quando ha sbagliato Pirlo a fare il rigore, tutti hanno detto, peccato. O se, non so, oggi c'è la notte degli Oscar, se Leonardo DiCaprio non vince l'Oscar, peccato. È così, è mancare di fare qualcosa di importante, di arrivare a fare qualcosa di importante. Io credo che questo è chiave per comprendere questo concetto, perché noi quotidianamente manchiamo di fare qualcosa di giusto e di buono. E quando ti svegli la mattina e potresti mancare di dare un bacio a tua moglie, è peccato. O se guidi e non dai la precedenza a destra, è peccato. Oppure manchi di pagare le tasse. Che brutta sta cosa. È peccato. E così via. Abbiamo una realtà che di fatto è quotidiana intorno a noi. Manchiamo di praticare la giustizia, le cose buone che invece dovremmo praticare. Ma come si fa? Allora sbagliamo in continuazione. Eh sì. La nostra natura umana è prettamente legata a questo concetto e noi difatti no, lo lasciamo lontano, gli diamo parole difficili tipo fornicazione, menzogna, no? Voi ai vostri figli dici, figlio mio sei un menzogniere, no? Vi esprimete così, no, dite delle cose molto più pratiche, dici bugia, non devi dire bugie. Il peccato è vicino a noi, è intorno a noi, ci avvolge. E questo è un grosso problema, anzi la Bibbia ancora di più dice in Romani 6, dice questo verso che forse molti di noi conoscono, che il salario del peccato è la morte. Cioè vuol dire quando noi manchiamo di praticare il bene guadagniamo morte. Ma è così, perché ogni volta che noi commettiamo un'ingiustizia, piccola o grande che sia, qualcosa di noi muore, irrimediabilmente. Ma non sta parlando di una morte fisica, ok, che è quella che magari ci può spaventare di più, ma sta parlando di una morte spirituale, di qualcosa che è dentro di noi, che decade ogni volta che sbagliamo. E come si fa? Qui la questione diventa ancora più seria perché in realtà, proprio possiamo prendere esempio dal nostro figlio prodigo che ammette di avere colpa, che ammette di avere in peccato contro suo padre. E la Bibbia ci aiuta però in questo, perché se dobbiamo ammettere che sbagliamo in continuazione, come ha fatto il figlio in una cosa grossa, ma pure noi le facciamo nelle cose piccole, benché io senta dire molto spesso, ma io che faccio di male? Non faccio niente di male. Non ho ucciso nessuno, non ho tradito nessuno, ma in realtà il peccato è intorno a noi in continuazione. Ma in Efesini, no? Questo è bellissimo questo passo, capitolo 2 dice, a un certo punto ho sentito la mia voce più alta, non so come mai, in Efesini al capitolo 2 leggiamo, ma Dio, che è ricco come il Padre in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificato con Cristo, vivificati con Cristo. E questo è così fondamentale perché abbiamo un'opportunità che Dio ci ama e nel suo amore noi possiamo essere vivi. È incredibile. Questa è la cosa che dovrebbe in qualche modo cambiare il nostro atteggiamento nel sapere che sì, c'è un rimedio. Quanta gente intorno a noi non vive veramente, la vedi un po' morta intorno e sono tipo zombie, no? Si trascinano, non sono vivi, sono persone che hanno pesi, che vivono sotto il fallimento, vivono sotto la depressione. Non sto parlando di cose gravi, però quello è frutto del peccato, è qualcosa che ci ha separati, qualcosa che ci dice chiaramente che siamo andati via dalla casa del Padre. Ecco, ve l'ho detto. Quando vai via dalla casa del Padre non stai vivendo più, stai sopravvivendo, ti cibi di ghiande, ti cibi di cose che servono ai maiali. Sapete cosa serve il cibo per i maiali? A farli ingrassare, a farli morire, perché servono per fare i prosciutti e il maiale in aglio dolce. E noi dobbiamo fare questa fine, io penso che ci meritiamo di più, perché noi siamo figli. Possiamo riscattarci nell'idea di avere questo diritto. E Gesù dice, la parola di Dio dice che chiunque ha ricevuto Gesù ha il diritto di essere chiamato figlio. Figlio. E se rileggiamo il discorso che fa il figlio, cos'è che dice? Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Bel discorso, no? Per carità, molta umiltà, molte cose buone che lui dice, però mettiamoci un attimo ad analizzare quello che dice bene, perché qui c'è un problema grave. Non so se voi, chiunque di voi sia genitore, se qualche volta dei vostri figli vengono a voi la sera e vi dicono: papà, io, mamma, io ho fatto i compiti, ho sparecchiato, ho fatto questo, ho anche lavato la macchina, ora sono degno di essere chiamato tuo figlio? E tu gli dici: ma sei scemo? Ma come? Io ti do da mangiare, ti porto, ti faccio vivere e tu pensi che con le cose che fai puoi essere degno di essere chiamato mio figlio? C'è sullo stato civile, c'è un certificato che dice tu sei mio figlio, e non per quello che sai fare o per quello che vorresti fare o pensi di poter fare, ma tu sei mio figlio. Allora, sapete cosa fa Pier Silvio, il nostro figlio spendaccione, ha l'ardire di dire: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami pure come uno dei tuoi servi. Ma che umiltà è questa? Ma che umiltà è? Ma tu non sei degno di niente, sei figlio e basta. Torna a casa. Scemo. Qualche volta facciamo delle cose intelligenti, no? Prendiamo delle decisioni sagge. E sapete cosa fa? Lui torna a casa. Torna a casa. E cosa succede? Che c'è il padre che lo aspetta, l'abbiamo letto nella storia. Ed è bellissimo perché nel momento in cui qualcosa poteva andare storto, c'è un padre che ti aspetta. E io non so se tu... Se fossi al posto di Silvio, a cui hai dato, cioè a tuo figlio hai dato 1,5 miliardi di dollari e li ha spesi tutti, la prima cosa che fa quando viene, cosa fai? Insomma, qualche ceffone glielo dai, no? Come minimo, qualche brutta parola gliela dici. No, qui c'è un padre che aspetta, sapete che cosa fa? Non sta mandando nessuno ad accogliere suo figlio che torna a casa, sapete che fa? Va lui. Sapete cosa c'è scritto? È fantastico. Io ogni volta che lo leggo sono impressionato da questo passo, sempre in quello che leggevamo prima, nel capitolo 15 di Luca. Ma, scritto maiuscolo, ma, mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione e corse. E corse. Cioè si mise a correre. Ora, poteva dire agli inservienti, ai camerieri, andate voi ad accogliere mio figlio, portatelo qui per voglio parlargli, devo fare una bella ramanzina. No, dice, non va nessuno, non va neanche allo stallio le mangano, non va nessuno, va lui direttamente. Corre! Ma sapete cosa vuol dire? Che non, quando uno si mette a correre, quando potrebbe farlo chiunque altro, quello, si sta umiliando totalmente. Poteva fare, sostituire questa azione con qualunque altra, ma no, ma lui corre, lui prende l'iniziativa, lui prende l'iniziativa e corre verso suo figlio. Ora qui c'è un problema nel titolo di questa storia, perché questa storia ha come titolo Il figlio spendaccione, il figlio prodigo. Ma questi titoli li ha dati il traduttore, ma il vero titolo di questa storia è Il padre che corre. È un padre che corre verso di te. È un padre che corre verso il suo figlio. E qual è la chiave di questa storia? Il figlio che torna a casa, che si è umiliato, che va lì a fare il bel discorso? No. La chiave di questa storia è un padre che corre. Oggi abbiamo un'opportunità di riflettere su questo concetto, perché noi tutti ci siamo separati dalla casa del padre e pensiamo di fare bene le nostre scelte. Io non sto parlando solamente di chi oggi va a celebrare un ritorno a casa, che sono i nostri ragazzi che si battezzano tra un po', ma io sto parlando di ciascuno di noi e di qualunque scelta quotidiana facciamo nella nostra vita, che tu sia credente o no. Il tuo atteggiamento è vivere nella casa del padre, uscirne, entrare, oppure stare in casa e trattare tuo padre non come tuo padre, ma come padrone di casa, a cui devi pagare l'affitto, per esempio, a cui devi dare conto, a cui devi fare delle cose per piacere. No. No, no, perché tu sei benvenuto a casa. È scritto qua all'ingresso di questa chiesa che è una casa. E tu sei benvenuto qui. Tu sei benvenuto qui, come io lo sono oggi. Il gesto più grande che Dio poteva fare per te l'ha fatto. E ha considerato di correre verso di te, come l'ha fatto quando Gesù è venuto sulla terra. Ha lasciato, l'abbiamo letto nelle canzoni che abbiamo cantato prima, ha lasciato la sua corona, lui è il Dio dell'universo e lascia tutto quello che ha per venire da te qui, per venirti incontro ad abbracciare al cancello d'ingresso e dire bentornato a casa. Come l'ha fatto? Pagando tutto il debito del peccato, dell'ingiustizia della tua vita, qualunque esso sia, qualunque esso sia, qualunque esso sia che hai fatto oggi, stamattina o che farai nel futuro, lui ha voluto pagarlo per te, morendo su una croce. Questo simbolo di morte è un simbolo di vita per te e per me, perché lui paga tutto. Quello che tu hai sbagliato, il tuo fallimento, la tua stupidaggine, il tuo scappare di casa con i soldi, lui ha pagato per te. e corre ancora oggi verso di te, perché tu sei benvenuto a casa. Vogliamo alzarci in piedi e voglio pregare per chi come me oggi ha tanto bisogno di essere abbracciato, baciato, riaccolto a casa, perché sente il peso dell'ingiustizia della sua vita o il peccato che può vivere nel suo cuore o i suoi pesi, i suoi fallimenti. E io non so in che condizione tu sia qui oggi, però oggi Gesù corre verso di te. Tu hai un padre che corre verso di te, hai qualcuno che ti ama, hai qualcuno che a cui importa che sei parte della famiglia e che non vuole lasciarti fuori dalla casa, ma sei parte della famiglia. Sentiti benvenuto. Signore, io ti prego e sento molto forte che qualcuno sta dicendo nel suo cuore: no, non c'è più niente da fare per me. Oggi Gesù vuole fare qualcosa per te, perché si preoccupa dello stato in cui ti trovi. Smettila di stare a dare da mangiare i maiali, perché tu meriti di più di quello di vivere nel fango. Tu puoi tornare a casa. Tu puoi tornare a casa. E io ti prego per ciascuno di noi, Signore Gesù, che puoi convincere i nostri cuori a prendere almeno la decisione di venire verso di te, perché tu farai il resto. Tu sarai lì al cancello ad accoglierci e non ci lascerai andare mai più via, e preparerai per noi vestiti più belli, vestiti puliti e cibo più sano, perché noi vogliamo vivere la tua presenza. E quando siamo con te, qualunque cosa succede, noi siamo con te, noi siamo in te, con questo diritto che non avevamo più, di essere chiamati tuoi figli, ma tu ci chiami figli per la gloria del nome del Signore Gesù. Amen. Amen.